Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Tu parli di legge, parli di bagarella. Tu quando parli di corleonese ti avessi a lavare e smazzare la bocca. Con l'aceto ti avessi a lavare la bocca tu quando parli di corleonese. Tu invece dici che quello ti racconta quello, Signor Pendite, sono gestiti. Lei da chi? Lei mi può dire da chi? Da chi ha il comando di gestirle, signor Presidente? Chi ha il comando di gestirle, lei gestisce. Mentre io sono un ideatore, condannato mediatore, però, signor Presidente, la verità è che forse allo Stato servo per parafulmine, perché tutto quello che succede in Italia e che è successo in Italia, all'ultimo si imputa Rina è il parafulmine e Rina sta bene per tutti. Rina è il parafulmine. Rina in questi giorni è uno degli hashtag più frequenti in tutti i trend topics di Twitter e dei social network in genere. Perché? Perché in Italia è accesissimo il dibattito, non solo sui giornali, ma anche per chi sta tutto il tempo sulla tastiera e comunque vuole partecipare all'attualità su quello che sta accadendo, appunto, sul Tribunale di Sorveglianza di Bologna, che in qualche maniera ha posto alla Corte di Cassazione il problema che Rina vorrebbe andare a morire a casa, vorrebbe morire dignitosamente, avere una morte dignitosa. Su questo naturalmente c'è una vicenda reale, concreta, di cui parleremo, una vicenda emotiva che gira nei social network. Uno dei post più scambiati è il brano della deposizione in cui si parla dello scioglimento dell'acido nel bambino, si usano le cose più truci. Da una parte le posizioni sono quelle, diciamo, per quello che ha fatto Rina non merita nessuna pietà, d'altra parte c'è una posizione più mediata. Ora, questa mattina cade casualmente questa parte del dibattito perché abbiamo già in progetto di parlare con Pietro Grasso, presidente del Senato. Buongiorno, presidente. Buongiorno Grasso, a tutti gli ascoltatori. Che ha appena pubblicato un libro dove appunto parla dei suoi ricordi di mafia. Prima ancora di essere presidente del Senato ha una lunghissima vicenda di persona che si occupa della mafia, che inizia proprio iniziandosi a occupare del caso Piersanti Mattarella. Sì. Racconta quella mattina che la prima volta si occupava di un caso di mafia, che anno era? Era il 1980, l'epifania del 1980, il posto dove ho conosciuto per la prima volta il fratello di Piersanti Mattarella, Sergio Mattarella, con cui ci siamo scambiati le consegne da Presidente della Repubblica supplente a Presidente della Repubblica di tutti gli italiani. Guardi il paradosso, oggi il Presidente Mattarella fa la prefazione al suo libro, siete su due ruoli istituzionali, avete avuto in comune una storia molto intensa legata alla mafia. Il libro di Pietro Grasso è Storie di sangue, amici e fantasmi, è pubblicato da Feltrinelli. Andiamo subito all'evento attuale, non possiamo fare a meno di parlarne. Questione Rina. Esiste una posizione che non sia in qualche maniera compromessa dai sensi di vendetta o di emotività in qualche maniera condizionata dall'indubbio orrore che fa la figura di Totò Riina? Intanto io non mi sono trattenuto dall'intervenire su questo tema proprio perché ho delle ragioni personali e quindi non pensavo di dover intervenire, perché proprio Riina aveva progettato un attentato nei miei confronti dopo Falcone e Borsellino, accantonati gli attentati nei confronti dei politici che erano stati appunto progettati, pensavano dicendo a Brusca ci vorrebbe un altro colpettino per riavviare una trattativa che probabilmente languiva. Era progettato appunto l'attentato del mio confronto. Il colpettino era lei? Il colpettino ero io, quindi io entro come vittima e poi per l'arresto di Riina, per alcune difficoltà logistiche, per un sistema d'allarme della banca di una banca vicina che poteva interferire sull'elettronica dei telecomandi. E poi per l'arresto di Riina, ma per l'arresto di tutta la squadra che doveva eseguire l'attentato, e poi per il cambio di strategia che si spostò dagli uomini, dai magistrati e dai poliziotti, si spostò sui monumenti artistici del continente, diciamo questo attentato non ci fu più. ma nel corso dell'indagine è venuto fuori anche che era progettato un sequestro di mio figlio, cosa che anche questa non fu realizzata per... Chi se ne doveva occupare? Se ne doveva occupare appunto Brusca insieme a un rappresentante locale del territorio dove abitavamo a Palermo, che doveva appunto sequestrarlo per Brusca cercare di rallentare la repressione dello Stato nei confronti appunto dell'organizzazione. Brusca è la persona che ho citato prima, che aveva sciolto nell'acido il bambino. Cioè, l'ipotesi quindi è che questo sequestro potesse anche finire in malo modo, però ecco, ci sono state queste situazioni che io naturalmente ho vissuto e continuo a vivere con emozione, che mi hanno portato a non intervenire, però mi rendo conto che in questo caso la sensibilità da parte di tutti coloro che sono intervenuti è qualcosa di positivo intanto. Nel senso che è un tema che è venuto all'attenzione di tutti quanti un po' perché il 25esimo anniversario delle stragi ha portato all'attenzione di tutti questo tema, un po' spero di contribuire anch'io con questo libro a rendere, a far ritornare questo tema come qualcosa di importante, e poi io penso che la sentenza della Cassazione non abbia voluto scarcerare, questo da un punto di vista tecnico, abbia solamente richiesto un'ulteriore motivazione da parte dei giudici del Tribunale di Sorveglianza di Bologna. E quindi io, che ho sempre portato come medaglia dello Stato italiano di poter combattere fenomeni criminali di questo tipo con la legge, con i codici, io ho piena fiducia nel fatto che sicuramente riusciranno i giudici e i pubblici ministeri, la Procura Generale di Bologna che segue questi procedimenti, a motivare, a dare le motivazioni della attuale pericolosità e della umanità con cui viene anche trattato in carcere nel migliore specialistico polo sanitario che possiamo avere sul territorio, proprio a Parma. Diciamo, le cure mediche non gli mancano. No, ecco, certamente no. E poi ha ancora, non dobbiamo dimenticare che è ancora il capo di Cosa Nostra per le regole che noi conosciamo di Cosa Nostra, e poi che sempre la legge può dare la possibilità di interrompere questo regime del 41 bis, cioè del carcere duro, collaborando. Cioè lui potrebbe così, sempre secondo la legge dello Stato italiano, potrebbe ottenere la cessazione delle misure, così come tanti altri prima di lui, collaborando e facendoci un po' sapere chi erano queste persone importanti che lo hanno contattato prima di fare le stragi. Potremmo anche sapere tante cose che ancora purtroppo non sappiamo. Cioè, tanti misteri. Se Totò Riina volesse veramente tornarsene a casa, potrebbe interrompere il 41 bis facendo i nomi dei famosi mandanti che non facciano parte proprio espressamente, esplicitamente del mondo della mafia. Beh, diciamo, lui stesso ha detto, secondo quello che abbiamo accertato con anni di indagini, che era stato ipotizzato di uccidere Giovanni Falcone a Roma. È arrivato a un certo punto, lui ha richiamato il comando che doveva ucciderlo, ha detto: abbiamo trovato cose più importanti, qui lo facciamo con una strage a Palermo. E quindi dovrebbe farci capire cosa ha fatto cambiare questa strategia e perché questa strage, e chi eventualmente di esterno alla mafia abbia collaborato. Ci fermiamo solo un istante col presidente Grasso. 800240024, il tema mi pare chiaro, mi pare esplicito. Oggi parliamo di mafia perché non se ne parla mai abbastanza. Tra poco. Melog, cronache meridiane. Riina Salvatore è stato catturato dai carabinieri questa mattina a Palermo. La latitanza del capo dei capi termina il 15 gennaio del 1993, quando Curto così viene ancora chiamato per via della sua statura che non supera il 1,58 m, mostra il suo viso agli uomini del capitano Ultimo, che lo catturano proprio di fronte alla sua villa in via Bernini, nel quartiere Uditorio. Non abbassa lo sguardo neppure quel giorno nella saletta della caserma dei carabinieri di Palermo, dove con le manette ai polsi lo stanno filmando. Ha le spalle al muro e sopra la sua testa la foto 800 24 00 24. Il dibattito è aperto, scrive subito un sms un ascoltatore: Rina deve decomporsi in carcere. Vediamo se questo è un punto di vista accettabile, senza nulla togliere all'orrore di quello che ha fatto e che probabilmente di cui ancora non sa nemmeno tutto Totò Riina. Ho in studio con me il presidente del Senato Pietro Grasso, che ha appena scritto un libro, Storie di sangue, Amici e fantasmi, ricordi di mafia, e con prefazione di Sergio Mattarella. Nella foto di copertina, presidente Grasso, c'è lei con Falcone e Borsellino. Sì. È dei tre, come ci ha appena detto, anche lei era destinato a fare la stessa fine. Sì, questo... Cioè, Torina l'aveva condannata anche lei a fare la stessa fine. Il colpettino mancava. Mancava questo colpettino per riavviare appunto quella trattativa che a quanto pare era in corso e che poi si è spostata sul patrimonio artistico. Ho letto male, anche lei per un puro caso non era capace. Sì, dovevo essere in macchina perché tornavo con Falcone e lui ha rinviato di un giorno, dal venerdì al sabato, il rientro a Palermo. Io ho preso un aereo di linea, ho trovato l'ultimo posto disponibile la sera, perché era un venerdì, e sono tornato la sera prima. Però poteva esserci anche lei. Poteva esserci anch'io, ma questo è un fatto molto intimo, nel senso che mi ha creato quasi un senso di colpa per essere sopravvissuto. Senso di colpa che si è aggiunto al senso di colpa che è venuto fuori dal successo del maxi processo contro la mafia, perché poi con gli ergastoli che sono diventati definitivi e che io avevo contribuito ad irrogare nel primo grado, poi si è scatenata la reazione appunto da parte di Cosa Nostra, di Riina, e quindi a questa ogni tanto diciamo qualche senso di colpa viene a dire: ma avere superato tanti ostacoli, ma è possibile che se non ci fossero stati questi ostacoli sarebbero ancora vivi i miei amici, i miei colleghi? E però questo poi l'ho superato riflettendo su quella che era la loro personalità, quello che era il loro modo di vedere le cose. Non si sarebbero mai fermati, non ci saremmo mai fermati se fosse fallito il maxi processo e ne avremmo fatto un altro, avremmo trovato altri collaboratori di giustizia, altri riscontri. E quindi questo ha in un certo senso tacitato il mio senso di colpa. Fatti sentire coscienza. Subito, Salvo Lima è stato il primo segnale che hanno dato che qualcosa si era rotto comunque per loro, dice adesso rotto. Non scherziamo più. No, non è che non scherziamo, era cessato, e Falcone lo disse subito, mi disse adesso può succedere di tutto, proprio perché si era rotto il legame mafia-politica, il referente politico Salvo Lima è stato eliminato, un chiaro segnale che finita una stagione, però se ne cercava un'altra e si cercavano altri referenti politici. E ancora Totò Riina potrebbe raccontare quel tassello che manca, di cui si è tanto parlato, è sempre rimasto a livello delle interpretazioni, se volesse. Spesso è stato sul punto di farlo, ma mi è sembrato più un modo per minacciare qualcosa che poi però state non attenti, ha realizzato. Potrei fare dei nomi. Sì, qualcosa sempre si è proposto per dichiarare questo. Del resto noi abbiamo, il libro parla di storie di fantasmi, no? E i fantasmi sono proprio questi, sono quelli che non riusciamo a materializzare attraverso i racconti di Provenzano, che ormai ha portato con sé nella tomba questi ricordi, e Riina, che ancora potrebbe, perché ce lo descrivono ancora come lucido partecipe alle udienze dove viene di volta in volta trasportato nel processo trattativa, è lucido e quindi in grado di poterci riferire quali sono stati i suoi contatti. Lui dice che lui è il capro espiatorio. Beh, allora dica chi è che lo rende capro espiatorio. Ma lei ci ha appena detto, Presidente Grasso, che nella liturgia mafiosa è ancora il capo, perché esiste, è una questione dinastica, finché è vivo è il capo assoluto. No, non è dinastica, è una questione elettiva, secondo quello che ci dicono i vari collaboratori, nel senso che il capo viene eletto all'interno della famiglia e poi all'interno della commissione. Cioè, non può abdicare. Diciamo che nella fenomenologia mafiosa la struttura dovrebbe essere democratica, però è democratica, apparentemente democratica, poi quando una personalità come Rina prende il potere è diventata una dittatura, per cui gli altri non si peritavano assolutamente di contrastarlo, parlavano di occhi di ghiaccio e terribili che incutevano timore, quindi lui faceva delle affermazioni nel corso delle commissioni e nessuno osava dirgli qualcosa. Beh, anche se poi hanno fatto sapere che magari non erano d'accordo. Mille morti in 2 anni, la presa di potere dei corleonesi, lo dice nel suo libro, non è che proprio andava con la mano leggera anche con i suoi. Beh, questi mille morti sono nella guerra di mafia tra l'81 e l'83, quindi hanno conquistato il potere a Palermo i corleonesi, ma per corleonesi si intendono non gli abitanti di Corleone, per carità, io voglio essere ben preciso, nel senso che la famiglia di Corleone con le altre famiglie palermitane confederate, nel senso quelle che erano vicine a Riina e a Provenzano e che insieme hanno tolto dal campo coloro che non consentivano il loro ingresso soprattutto nel traffico di stupefacenti e nei rapporti anche a livello istituzionale. Ci fermiamo ancora un istante per dare la linea 800 24 00 24, sono già delle telefonate, ma adesso le sentiremo fra un istante con il Presidente del Senato Pietro Grasso, tra poco. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Fineco, la banca numero 1 in Europa nel trading, vi presenta Melog, cronache meridiane. Io desidero farvi un augurio. Io vi auguro la pace, signor Presidente. A tutti voi io auguro la pace, perché la pace è la tranquillità e la serenità dello spirito e della coscienza. È quella che ci auguriamo anche noi. Che per il compito che vi aspetta, mi deve scusare, signor Presidente. La serenità è la base fondamentale per giudicare. Allora, Michele Greco ha già verbalizzato. Sì. Presidente Pietro Grasso, che vuol dire quando un mafioso dice ti auguro la pace? Ma diciamo che qualcuno l'ha interpretato per una pace eterna, nel senso che si metteva di fronte alla responsabilità di una decisione. Questo è stato fatto prima di ritirarci in Camera di Consiglio, dove siamo stati per ben 35 giorni a decidere. Record assoluto. Ma penso di sì, assoluto sì. 35 giorni per decidere della sorte di circa 475 imputati. Ne facevamo 10 la mattina e 10 la sera, 15, 20 al giorno per decidere. Per ognuno di questi io avevo creato un fascicolo singolo processuale, in maniera che ci fosse una decisione mirata sulla persona, sulle sue responsabilità. Sono stati 114 gli assolti, quindi è stato un giudizio. Tra gli assolti è stato anche Luciano Liggio, cosa che è stata considerata come dovuta, perché lui era in carcere da tanti anni, non ha mai stato dimostrato il collegamento dal carcere con tutti i fatti che frattanto erano successi. Quindi sotto questo profilo io ritengo sia stato un processo giusto. Ecco, Presidente Grasso, fra il concetto di vi auguro la pace e il concetto di morte dignitosa, di cui si sta parlando molto, cioè, questo racconto che fa oggi Attilio Bolzoni su Repubblica dice che in realtà morire nel proprio letto sarebbe per un boss mafioso una sorta di rivendicazione, di vittoria nei confronti dello Stato. Lei è d'accordo su questa lettura? Ma io non entrerei in quest'ordine di idee, perché non è questo il metro di valutazione, cioè se è dignitoso, deve essere dignitosa la carcerazione, secondo le nostre leggi e secondo la Costituzione. E io a mio avviso, ritengo che sono adottate tutte le misure idonee per poter rendere dignitosa la carcerazione di Riina. Naturalmente questo deve essere dimostrato ai giudici che dovranno decidere in maniera tale che si possa garantire appunto ancora il 41 bis. Non dimentichiamo che il 41 bis è un decreto che viene erogato, viene pronunciato dal Ministro della Giustizia, avverso il quale si può fare ricorso al Tribunale di Sorveglianza, e con i pubblici ministeri che possono reggere l'accusa sotto questo profilo, e quindi è un procedimento garantito dalla legge a tutti gli effetti. Che però nel caso di Riina e in altri casi ha un suo senso profondo. Riina è sotto 41 bis perché non possa dare ordini alle persone che ancora lo considerano il capo. Questo è lo scopo del 41 bis, evitare che possa dal carcere continuare a dare ordini. Del resto abbiamo visto che può anche far uscire delle larvate minacce, non tanto larvate ma minacce ben precise. Per esempio recentemente Don Ciotti, no, è stato come vittima di minacce proprio emesse da Riina nel corso della sua detenzione, che sono state captate da intercettazioni appunto in carcere. Quindi se per paradosso... E anche Di Matteo. Di Matteo oggi è sottoposto a misure di sicurezza personali proprio per le minacce che sono state fatte da Riina, diciamo, a un altro detenuto che era con lui. Per paradosso, se cessasse il 41 bis, Riina potrebbe riprendere a avere contatti diretti con i suoi accoliti. Certamente. Questo è da valutare. Il problema è proprio questo. Naturalmente si potrebbe sottoporre a sorveglianza, però con le tecnologie moderne e la comunicazione moderna non si potrebbe assolutamente garantire, come in questo regime, la impossibilità per Riina di comunicare ordini all'esterno. Sentiamo qualche ascoltatore. Pietro, buongiorno. Buongiorno e grazie per questa possibilità, soprattutto di ringraziare a nome mia ma di tanti altri il presidente Piero Grasso per il lavoro che ha fatto per la giustizia e per aver chiarito che non vogliamo vendetta e allo stesso tempo è improprio parlare di pietà. Se la giustizia ha riconosciuto colpevole questo individuo, come qualunque altro, è giusto che questo individuo rimanga fuori dal consesso sociale. Se ci vuole tornare, può farlo, perché la pena deve avere una funzione rieducativa, pentendosi. Perché la misericordia esiste ed è cristiana, ma non va confusa con l'ingiustizia e il torto che si farebbe alle vittime della mafia. Quindi si penta, rinneghi il suo passato, fattivamente aiuti, come ha detto il presidente, agli inquirenti, e allora sicuramente potrà tornarsene. Mi sembra chiaro, non lo farà mai. Pietro, mi sembra chiaro, non farà mai, vediamo. Riina potrebbe in questo momento scrivere una pagina della storia mancante nella storia degli ultimi 30 anni di mafia, se volesse. Sì, abbiamo tanti pezzi mancanti, vorremmo che questo mosaico si potesse riempire. Qual è il più grosso? Beh, appunto le stragi di Falcone, le stragi di Borsellino e tutta la, diciamo, questa modalità che non era assolutamente consona a Cosa Nostra, perché in passato Cosa Nostra cercava di dialogare col potere per poterne trarre i massimi benefici. Questo attacco contro le istituzioni, lo Stato, i suoi rappresentanti è qualcosa assolutamente al di fuori della storia di Cosa Nostra. Sentiamo Marco. Marco, buongiorno. Sì, buongiorno a lei. L'ascolto. Sì, allora, dando per scontato una serie di cose che secondo me scontate non sono, cioè che Riina stia per morire, che la Riina Ototò Ucurturi sia stato veramente il capo della mafia, che non sia più in condizioni comunque di dare indicazioni e quant'altro. No, pare che sia lucido al momento. Sì, appunto. No, ma diamo pure per scontato invece che se la condizione sia quella che sta per morire non è in condizioni di nuocere. Ecco, secondo me un atto di generosità, come sarebbe auspicabile, se lo potrebbe permettere solo uno Stato che funziona, non uno Stato marcio come il nostro, perché fatto il buco passano tutti. Domani troveremo medici compiacenti che fanno certificati a morituri in perfetta salute, quale potrebbe essere Messina Denaro se venisse catturato, giudici che minacciati o conniventi accettano il certificato e purtroppo questo è solo uno Stato. Secondo lei, Marco, funziona. Faccio capire, vediamo se riesco a sintetizzare. Diciamo, sarebbe un atto di debolezza un atto cosiddetto di pietà. Poi la parola pietà non va considerata in questo caso, sta parlando in termini giuridici, secondo me sarebbe considerato un atto di debolezza, ma nessuno ha mai parlato di fare un atto di pietà, mi sembra, nella Cassazione, nel Tribunale di Sorveglianza di Bologna non si parla di pietà, si parla di una richiesta lecita che può essere accolta o può essere rigettata. Presidente Grasso, sì, è pronto, è questo il non, non ha chiesto clemenza, assolutamente non siamo in quest'ordine di idee, quindi siamo nell'applicazione delle nostre leggi e Rina, come tutti i cittadini, si deve adeguare alle nostre leggi. A suo tempo lo chiese Provenzano un provvedimento simile? Come no? Certo, ma Provenzano addirittura era stato ritenuto incapace di intendere e di volere, tant'è che fu stralciato, la sua posizione fu separata da un procedimento perché era ritenuto non più capace di seguire il dibattimento. E nonostante questo venne mantenuto in carcere e il 16 luglio del 2016 venne a morire in carcere. Quindi, in carcere, sempre in un sistema sanitario che lo ha curato fino all'ultimo, dandogli tutte quante le cure necessarie. Sì, per qualcuno mi ha scritto un sms, dice, ma non dite è in un ospedale o in carcere, ma vuol dire il 41 bis si applica comunque in qualunque luogo si possa trovare il detenuto. Adesso io non voglio fare dei paragoni tra le strutture sanitarie, ma certamente quello di Parma è una struttura di eccellenza e non sempre su tutto il territorio nazionale si trovano queste strutture, ma non voglio entrare proprio in questo ordine di idee. Noi sappiamo che sono adeguate tutte le cure che sono necessarie. Perché il problema è proprio questo, vorrei far riflettere su questo gli ascoltatori, non è una questione di pancia, è una questione emotiva, stato forte, stato debole, atto di pietà, atto di dignità, non merita dignità perché non ha mai avuto pietà per gli altri, via dicendo, è semplicemente una norma da applicare, ci sono tutti gli strumenti per valutare se questa norma va applicata o no. Certo, difatti il Tribunale di Sorveglianza di Bologna sarà chiamato a motivare su questa negazione degli arresti domiciliari che sono stati chiesti o comunque dell'interruzione del regime del 41 bis. C'è un capitolo nel suo libro che affronta un tema importante, che è il tema dei collaboratori di giustizia, sì, che è stata una svolta epocale, molto criticata ma comunque molto importante secondo il punto di vista. Ce lo vedrebbe lei con gli elementi che ha a sua disposizione, con la sua esperienza, Rina entrare in questo tipo di categoria? No, perché avrebbe avuto tante occasioni per farlo e non l'ha fatto. Che lo faccia proprio adesso mi sembra che possa contraddire tutta quanto una sua vita, una vita di mafioso e di capo mafioso che ha portato all'organizzazione, secondo anche alcuni mafiosi, alla distruzione, perché gli attribuiscono anche dall'interno dell'organizzazione, gli hanno attribuito responsabilità soprattutto su sia a lui che a Provenzano su certi delitti cosiddetti eccellenti che non rientravano certamente perfettamente nelle finalità di Cosa Nostra. Quindi lui è ritenuto responsabile anche all'interno dell'organizzazione Cosa Nostra. Per paradosso lui troverebbe un'organizzazione diversa da come l'ha lasciata, se potesse riprendere dei contatti. Giochiamo sul paradosso, se possibile. Beh, fare queste, diciamo, è un po' avventuroso fare queste ipotesi. Certamente l'organizzazione che ha causato tutte quelle stragi e le morti è stata destrutturata, non esiste più, quindi sotto questo, ma non significa che la mafia sia stata sconfitta, questo è importante dirlo e ripeterlo, ha imparato a mimetizzarsi ancora meglio, lascia silenziose le armi ma continua a lucrare su fondi pubblici, sul malessere della popolazione, sulle estorsioni che ancora non sono completamente finite, e molte indagini adesso lasciano emergere complesse rete di relazioni, per esempio tra mafiosi, politici, imprenditori, professionisti, amministratori pubblici, che inizialmente sono caratterizzate da intimidazione e violenza e che poi diventano collusione, corruzione e coincidenza di interessi. Questa è l'evoluzione della mafia e siccome è diventata invisibile, ancora maggiormente bisogna prestare attenzione a questo fenomeno che è connaturato all'esercizio del potere e cerca comunque di collegarsi col potere. Ultima domanda della pausa, il fatto che sia a tutti gli effetti ancora il capo della mafia, il suo è un potere simbolico legato a antiche ritualità o in effetti potrebbe ricominciare a dare ordini e gli ordini andrebbero eseguiti? No, secondo me se potesse essere messo nelle condizioni di dare ordini, i suoi ordini sarebbero eseguiti, non, nessuno potrebbe sottrarsi a tutto questo, quindi è importante mantenerlo in questa situazione. Ci fermiamo un altro istante, tra poco con il presidente Pietro Grasso. Grandi cambiamenti in vista? Scegli Gondrand Traslochi per il tuo trasloco internazionale. Gondrand.it vi presenta Melog, cronache meridiane. Siamo in studio con il presidente del Senato Pietro Grasso, che ha appena scritto un libro, Storie di sangue, amici e fantasmi, che sono i suoi ricordi di mafia, pubblicato da Feltrinelli. Il presidente Pietro Grasso ci ha dato un punto chiarificatore, elementi anche di valutazione, di approfondimento, elementi culturali per chi ci ha ascoltato, riguardo alla vicenda Totò Riina scarcerato o nel 41 bis. Ha spiegato chiaramente che il 41 bis non è semplicemente una sigla, ma è la maniera per cui Riina non possa continuare a dare ordini, perché Riina, nonostante che sia incarcerato da un numero enorme di anni, se potesse averne modo, è una persona lucida, riprenderebbe in mano comunque il timone della mafia. Sentiamo velocemente Rosario da Ragusa, poi andiamo avanti col presidente Grasso. Rosario? Cioè non parla, benissimo. Allora andiamo avanti, noi abbiamo toccato un tema che è quello dei collaboratori di giustizia, che è una vicenda che oggi magari fa meno parte delle cronache delle vulgate giornalistiche, però è ancora in piedi. È uno dei passi avanti fatti nella lotta alla mafia, perché esiste una sorta di scoramento generale in cui è facile abbandonarsi, ma la mafia non si sconfiggerà mai. Invece lei nel suo libro fa capire che bisogna considerare i passi avanti che sono stati fatti piuttosto che dire è un nemico invincibile. Quello dei collaboratori di giustizia è stato un passaggio importante. Io cito spesso, soprattutto quando parlo con i giovani, un episodio importante, un collaboratore di giustizia che è anche donna. Nel senso che una donna già nel 2004, quindi tanto tempo fa, era stata arrestata per concorso in associazione mafiosa perché faceva da portavoce, portaordini dal carcere che aveva il marito pure arrestato per associazione mafiosa. Questa donna dopo 10 giorni viene scarcerata perché aveva un bambino di 17 mesi, ma aveva anche 2 figlie, una di 11 e una di 13 anni, che andavano a scuola e avevano fatto un percorso di legalità. E dicono alla madre che si sentivano ghettizzate, mentre prima le figlie dei mafiosi venivano rispettate anche a scuola, adesso era cambiato completamente il clima e proprio dal fatto che le docenti avevano appunto applicato questi percorsi di legalità. E le figlie insistono e convincono la madre a collaborare con la giustizia. Cioè noi abbiamo l'esempio della scuola che esercita questa evoluzione culturale verso la legalità, le bambine che convincono un'adulta a collaborare con la giustizia. Questo è un grande esempio che ci lascia ben sperare, perché devo dire che diciamo che ci sono storie dolorose, ma ci sono anche storie di speranza, come per esempio adesso ci sono certamente giornalisti, per esempio, che fanno emergere delle malaffare e che vengono minacciati per questo. Ci sono magistrati e forze di polizia che combattono contro questi fenomeni. Ci sono docenti che ogni mattina a scuola trasmettono alle giovani generazioni i valori per cui sono vissuti Falcone, Borsellino e tutte le altre vittime della mafia. Ci sono cittadini che scelgono per il loro acquisto, per esempio, negozi che non pagano il pizzo. Ci sono ragazzi che fanno i volontari nelle associazioni che lottano la mafia e quelli che vanno a coltivare i terreni confiscati alla mafia. Cioè è un numero questo che cresce costantemente e mi dà la speranza, perché sono il frutto del sacrificio e della conoscenza. Ecco perché mi sono deciso a scrivere questo libro, per trasmettere anche ai ragazzi che sono nati dopo il 92, cioè dopo le stragi, e che magari sanno che c'è un magistrato morto ma non conoscono la storia, di dare quei valori, quegli ideali per cui sono morti e che non devono essere considerati degli eroi, ma delle persone normali, comuni, che naturalmente hanno fatto il loro dovere fino in fondo e hanno avuto il grande senso dello Stato e delle istituzioni. Non è che adesso, presidente Grasso, essendoci una versione meno epica della mafia, o perlomeno l'epica mafiosa è diventata fiction televisiva molto spesso, anche fatta bene indubbiamente. Ecco, quanto il racconto di ciò che è stato, il racconto della fiction, ha un valore o può essere al contrario una visione distorta di quelli che furono quegli anni? Allora, io ho un esempio che porto sempre, che quando ero procuratore della Repubblica a Palermo, in collegamento con i colleghi di Milano, fu arrestato un ragazzo 17enne, capo di una banda di rapinatori nei parchi milanesi, e che, a cui fu trovato in tasca un ritaglio del giornale che faceva la recensione del capo dei capi, cioè di Riina. Lui si sentiva già come investito di una missione, una funzione, avendo quello come modello. Era il suo scopo quello. Noi dobbiamo evitare che questi siano dei modelli, che siano dei modelli di comportamento, quindi dobbiamo farli conoscere, ma nel contempo dobbiamo cercare di far capire che i valori sono altri, non sono quelli che sono rappresentati da questi eroi negativi, che in un certo momento possono avere dei, così, soldi, ricchezza, potere, però se noi guardiamo sono tutti che finiscono, vite che finiscono col sangue, col carcere, con l'eliminazione reciproca che si fanno. Quindi sono questi i valori che dobbiamo portare avanti, quelli di Falcone, di Borsellino, come simboli di cittadini modello da imitare. Dopo finita questa missione, Leandra Napoli presenterà il suo libro con uno degli attori di Gomorra. Lì è molto chiaro, saranno anche all'apparenza dei duri, ma fanno delle vite terribili. Uno dice: ma vale la pena per fare una vita così, esatto, schifosa, rischiare ogni momento la propria, appunto, vita? Quando raggiungono l'apice vengono ricercati e vivono come dei topi in una fogna, nascosti, e non possono nemmeno godere delle cose che hanno accumulato, quindi è tutto vano. La vita che ha fatto Provenzano è inimmaginabile, è stato chiuso, quanti anni è stato chiuso dentro? Ma lui è stato per 43 anni ricercato, però diciamo che con alterne vicende, per cui nell'ultimo periodo era ricercato in maniera effettiva e molto approfondita, ma per qualche anno sappiamo che è andato anche all'estero, che ha fatto pure qualche, perché appunto non era stato ricercato se non dopo le stragi. Comunque sia, non è una bella vita essere sempre ricercati. Certo, assolutamente no. Grazie Presidente Pietro Grasso, al suo prossimo libro e al prossimo appuntamento per parlare di temi che sono sempre molto importanti nel loro approfondimento. Alla prossima!